That you always says you're listening to Fabio B and Johnny and Move Fire every time, okay? Yeah. Big up. Code name Move Fire on the run. Code name Babylon Action. Code name Move Fire on the run. Radio Babylon Action. Well, we have the lyrics weapon. They brandish when the dance get ram. We start fling down the Roseman pattern. Full of knowledge and enough wisdom. Some of them are come with them imitation. Born on the same day but a different pattern. But when you see the more fire show up on the run, you know say this your one when I ramp with the plan. Hey yo, tune in to the More Fire Show. This is Brother Culture. Big up the Under Rasta, massive every time. Right. Buonasera e benvenuti a tutte e a tutti a questa nuova puntata di More Fire Reggae Radio Show, puntata che in altri momenti avremmo detto calda, ma speriamo che in questo caso sia fresca, puntata di luglio che andiamo a iniziare con Roberto Sanchez, l'ottimo Roberto Sanchez, su una traccia registrata e uscita per la Fruit Records. Il pezzo si chiama Defend. I'm pushing my people down to the ground. Their kingdom is bound to fall. Cause the longer we fight, the stronger we get, and so we defend the right of our brothers and sisters who cannot defend themselves. Più a lungo combatteremo e più forti diventeremo e avremo modo di difendere i diritti delle nostre sorelle, i nostri fratelli che non possono difendersi da soli. Queste le parole di Roberto Sanchez. Practice what you preach before it's too late. Humble yourself, better practice what you preach before it's too late. Rimani umile e comportati come vai predicando in giro prima che sia troppo tardi. Queste invece le liriche sempre alla corte di Roberto Sanchez ai Lonark Studio di Villa Verde Santiago aka Shanti Ayala e della Nansa Liebel. su questa traccia estremamente conscious e solida che ricorda un po' il Roots 70 e che ci porta infatti a un ricaccione fondamentale degli Aswad che recita più o meno così. They were Per il secondo ricaccione dopo Yasua di Black Slate siamo rimasti nel carpiato di 40 anni fa con questa Black Slate Rock uscito come B-side di Amigo, pezzo pop al tempo famoso al di là del reggae negli anni 80 e proseguiamo il nostro viaggio con un pizzico di Rubadub. Overload double barrel, You see blood like you think a sorrel. In park, live here in the parking lot. See, there now a lot of people are shot. Grammy Kid Rose insieme a Sly e Robbie, parte del Black Huru, uno dei gruppi più cruciali sicuramente per i miei gusti, ma in generale del reggae e tra quelli che un po' governavano gli anni 80. Mentre passiamo a una realtà più recente, anche se ormai conclamata, gli scozzesi Mungo Hi-Fi insieme a Kiko Bone, Rhythm General. Rovescio per questo Rhythm General prodotto dai Mungo Hi-Fi, cantato da Kiko Boone, il quale ha registrato anche una linea di basso suonata da lui sulla traccia, un basso che comunque riprende i già citati Sly and Robbie. E arriviamo a Vivian Jones, immigrata in Inghilterra a poco più di 10 anni. Questa è la sua Physical, perché ci vuole il fisico. Cause anything you do, you have to have the energy. You have to have energy. One energy. You have to have energy. You have to have energy. One, one. parlando di Digital Era, non possiamo non citare, ma non solo, non possiamo non ascoltare King Kong. La traccia si chiama Don't Tell Me That You Love Me sul World of Music Rhythm, e appunto dice: non mi dire che mi ami se in realtà mi vuoi soltanto perché cerchi qualcuno che sia una superstar e che ti sostenga nei tuoi financial affair, che ti sostenga economicamente. So I go, è così che va King Kong. Abbiamo fatto questo rimpallo tra passato e presente, e passato e presente è appunto il titolo della prossima traccia cantata da Pupa Jim, prodotta da Mungo Hi-Fi. More Fire. Pupa Jim, non lasciare che il passato ti rovini il presente, la nostalgia non è una buona consigliera. Lyrics, come diremo noi, word, sempre conscious, parole di peso, quelle di Pupa Jim, che sicuramente avrete già ascoltato se siete dei frequentatori di questa trasmissione, in onda ogni martedì su Radio Onda Rossa, la radio che potete ascoltare ma che sicuramente dovete sostenere. Visitate la pagina www.ondarossa.info per conoscere tutte le modalità. Inadi Radio è anche il titolo della prossima traccia cantata da Little Jordi. We no want no commercial vibes in Inadi Radio, see? Commercial vibes play Inadi Radio, non vogliamo musica commerciale in radio, vogliamo l'original style, vogliamo sentire cose originali che abbiano un messaggio. Alcuni parlano di quante donne hanno, altri parlano di soldi, quello che noi vogliamo è testi che parlino di reality, della realtà. Questo è quello che dice la canzone prodotta da Rolling Record, cantata da Little Jordi. Reggae music ha le potenzialità per portare, veicolare il messaggio. Reggae music che continuiamo a sentire, tornando in qualche modo in Giamaica con un pezzo che è già un anthem. Lui è Kabaka Pyramid, accompagnato da Junior Gog Marley. Il pezzo si chiama Red, Gold and Green. Thank you.

moving with the velocity, running like an anomaly. So we be unpredictable, each of we individual. Ruler breeze unstoppable, fight upon every rhythm. Conscious lyrics we keep spitting, we stand like we're humble. We march through this jungle, we breeze, we're resilient. Chant like we're brilliant, we rock like the rhythm. And keep up the tempo, right through this movement. Not stop, never let go, you will learn. Alongside Natalie Rise once again, Pandem. Oh, and we say, whoa. Unity in community. Grow with you them suitably, showing them what duty be. Everybody have a purpose, knowing what them duty be. Nowadays it coming like them ideas are new to me. Babylon system is abusing the populace, and the smartphones they using them, watching us, and the music we're popular. Them infuse it with Dracula, vernacular. And if you're not, them stop you like a mafia. What's going on in this world? It's like something is wrong in this world. From the moment you're born, yeah, you gotta be strong if you wanna live long. Reaching out to every boy and every girl, yeah. Fire is burning red. Natalie Rice, Kabaka Pyramid. What's going on in this world? Something is wrong in this world. Qualcosa è sbagliato, più di qualcosa diremmo noi, ma siamo giunti alla fine della puntata, quindi vi auguriamo una buonanotte a tutte e a tutti, continuate ad ascoltare la radio e Fabio B e Gianni vi salutano, bella, ciao. Fire, got a fire, get a fire, fire show, more fire, keep it busy. This station versions, and this is that UI says you're listening to Fabio B and Johnny and Move Fire every time. Okay, big up. Code name, more fire on the run. Code name, Babylon action. Code name, more fire on the run. Radio, Babylon action. Well, we have the lyrics weapon. It brandish when the dance get ram. We start fling down the Roseman pattern. Full of knowledge and of wisdom. Some of them a come with an imitation. Born on the same day but a different pattern. But when you see the more fire show up on the run, you know say this your one when a ramp with the plan. Hey yo, tune in to the More Fire Show. This is Brother Culture. Big up the Under Rossa. Massive, every time. Right.